America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, una giornata di contraddittori ieri a Washington in congresso, audizioni per l'incidente sulla piattaforma petrolifera al largo della Louisiana, audizioni alla sottocommissione finanza per la caduta di borsa per i mancati interventi dei meccanismi di controllo. Our company would definitely support anything that we can do to create a safer environment to operate in. La voce di Lamar McKay, presidente della British Petroleum, che parla davanti ai senatori, è molto tranquilla. Non credo che dovrebbe esserlo in realtà, perché è stato alquanto maltrattato per aver creato il più grande disastro ecologico degli Stati Uniti. McKay ha cercato di mantenere la calma e ha subito accusato la svizzera Transocean, che è la proprietaria della piattaforma, la Deepwater Horizon, che era stata data in gestione appunto alla grossa compagnia petrolifera britannica, per fare delle trivellazioni esplorative. E a quel punto, chiamata in causa, la Transocean dice di no, che era la BP che utilizzava la struttura che doveva garantire gli standard. E questa compagnia svizzera poi ha accusato anche la Halliburton, che doveva chiudere questa trivellazione, doveva chiudere questo giacimento che era stato appena trovato con un tappo di cemento, di aver lavorato male e di aver creato lei il disastro. La Halliburton a sua volta, ve lo ricordo, la Halliburton è questa grossa compagnia americana di grandi lavori che aveva lavorato a lungo in Iraq. Ecco, la Halliburton, in Iraq tra mille polemiche aggiungo, si giustifica affermando di aver seguito semplicemente le disposizioni della British Petroleum. Che cosa è successo in quel frangente? Beh, la British Petroleum utilizzava questa piattaforma per compiere delle trivellazioni esplorative. Il metodo normalmente è che quando si trova un giacimento di petrolio, a quel punto lo si chiude, lo si tiene in frigorifero, fra virgolette, per un certo periodo, dopodiché si costruisce una piattaforma per produrre le vere e proprie estrazioni di petrolio. Nel frattempo la Deepwater Horizon si muove in un'altra località, cerca altri giacimenti petroliferi e così via. Ecco, quando l'incidente è avvenuto, erano proprio nel momento in cui dovevano chiudere il pozzo, muoversi da un'altra parte. C'erano grandi festeggiamenti a bordo, la Halliburton doveva chiudere con una colata di cemento liquido questo giacimento, e la Deepwater Horizon si sarebbe mossa in un'altra località. C'era dunque in quella giornata tragica atmosfera di festa. L'esplosione terrificante nella notte del 20 aprile sulla piattaforma di trivellazione ha sconvolto ovviamente tutti coloro che erano a bordo. Abbiamo avuto testimonianze proprio nelle ultime ore di alcuni dei lavoratori che si trovavano a compiere le ultime operazioni per poter muovere poi la Deepwater Horizon in un'altra località, e sono, devo dire, testimonianze agghiancianti. Sentiamone alcune. It was a big explosion. The whole deck blew up. Dennis DeWayne, 30 anni, supervisore. Il ponte è esploso. Questa esplosione ha portato delle fiamme alte fino a 100 metri. Io sono stato scaraventato con un volo forse di 20 metri dall'altra parte della postazione su cui mi trovavo. Never seen that before. I never seen that kind of pressure before, and that scared me. Eugene Moss, 37 anni, mai vista una pressione di quella forza, mai vista in tutta la mia esperienza di lavoro. Non sapevo che fare, se correre, star fermo, muovermi. Poi l'istinto è stato quello di scappare. Ecco, da questi racconti abbiamo poi potuto ricostruire che cosa davvero è successo quella notte, che poi è la vera cosa importante e interessante da capire, e cioè che c'erano delle sacche di gas. Nel momento in cui si trivella e si cerca il petrolio, è normale, capita che ci siano delle sacche di gas che sono mischiate al petrolio. Queste sacche di gas salgono alla superficie nei tubi di trivellazione. Ebbene, settimane prima l'equipaggio della Deepwater Horizon, 126 persone, si erano resi conto che c'erano dei rischi. Queste sacche di gas erano più, diciamo, forti, gravi, pericolose di quello che avviene normalmente. Dopodiché c'è stata la normalità. Ecco, la prima ricostruzione concreta emersa anche ieri in congresso è che una di queste bolle di gas sia arrivata con una fortissima pressione in superficie, una scintilla l'ha fatta esplodere e da lì un paio di esplosioni a catena. Due sono state le grosse esplosioni. La fuga, scialuppe di salvataggio, sono scappati il più velocemente possibile. 11 membri dell'equipaggio, come sappiamo, sono rimasti dispersi. Ecco, dunque, abbiamo visto la tragedia da due punti di vista: dal punto di vista del business, che non riesce a gestirla, la macchia continua ad avanzare, miliardi di dollari di danni, il titolo della BP che è crollato; dall'altra, il punto di vista di chi si trovava a bordo. Questi due punti di vista ci portano al cuore del dibattito, e cioè alla riforma energetica. Come sappiamo, il presidente Barack Obama aveva così dato il permesso di poter fare trivellazioni al largo delle coste americane. I democratici durante l'amministrazione Bush erano contrari, non si fecero, e Obama ha fatto una virata a destra importante, ha in mente anche le elezioni di novembre per autorizzare queste trivellazioni. Con questo incidente, che è capitato letteralmente poche settimane dopo la sua autorizzazione, la partita improvvisamente si è completamente riaperta, e ieri è intervenuta direttamente la Casa Bianca in materia, un ordine partito dal presidente Barack Obama a Ken Salazar, il ministro degli interni, perché proceda con una separazione dei poteri dell'agenzia di controllo, la Mineral Manager Services, che è l'agenzia che è di supervisione proprio sulle trivellazioni. Qual era il problema? Che questa agenzia dava da una parte i permessi e incassava le royalties, ma dall'altra aveva anche la supervisione, quindi il controllo che tutte le regole di sicurezza fossero rispettate durante queste trivellazioni. Ebbene, l'idea è che ci siano dei conflitti di interesse, perché questa agenzia da una parte incassava royalties per 13 miliardi di dollari all'anno e dunque, si dice, forse chiudeva un occhio qua e là quando si trattava di fare i controlli. Non succederà più, saranno due agenzie separate. Ma cosa significa questo alla fine di una giornata come quella di ieri? Beh, secondo me che l'amministrazione Obama ha deciso che si deve andare avanti con le trivellazioni, con o senza incidente, con o senza il permesso del governatore della California Schwarzenegger, che ha immediatamente detto che al largo delle coste della California non ci sarebbero state più trivellazioni. La necessità di approvvigionamento prevale, dunque questa decisione della Casa Bianca si muove, secondo me, nel tentativo di recuperare un minimo di affidabilità e di poter procedere in contesto di riforma energetica con l'idea di andare avanti con le trivellazioni. It was the biggest ever fall in history and it happened in just 8 minutes. L'altra grossa battaglia alla Camera. Mary Shapiro, presidente della Security Exchange Commission, ha attaccato Eric Knoll, il presidente del Chicago Mercantile Exchange, che si è fuso col Chicago Board of Trade, accusandolo di essere stato lui, o meglio la sua organizzazione, colpevole della caduta in borsa del 9% della settimana scorsa. Lo stesso naturalmente ha fatto Eric Knoll, ha accusato la Mary Shapiro di essere lei la colpevole. Dietro questo litigio c'è una battaglia furibonda per capire che tipo di regolamentazioni ci saranno sui prodotti derivati da una parte, ma soprattutto sui cosiddetti fusibili, circuit breakers, questi meccanismi che interrompono le operazioni di borsa nel momento in cui ci sono delle enormi volatilità. Dietro operazioni altamente speculative con strumenti praticamente incomprensibili ci sono giri d'affari per miliardi di dollari. Abbiamo anche saputo poi cos'è all'origine della caduta del 9%. Siamo risaliti ancora più indietro, non alle 3:15 quando ci fu l'operazione attorno a Procter & Gamble, ma addirittura prima, alle 2:15 del pomeriggio di giovedì, quando un hedge fund, la Universal Investment LP, ha piazzato un ordine per 7,5 milioni di dollari per 50.000 opzioni su contratti a termine sugli indici di borsa. Ecco, si è costruito che da quest'ordine che poi è partita la catena di eventi che ha portato al crollo di borsa. Anche qui, come dicevo, grossi interessi in gioco. ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di disastro ecologico al largo delle coste della Louisiana e persino sulle coste della Louisiana. Ebbene, domenica ci sarà un concerto benefico chiamato Gulf Aid. Una gran quantità di artisti raccoglieranno fondi per i pescatori della regione. Fra questi c'è Mos Def, rapper di New York. Dedichiamo a lui la canzone del giorno con la sua Priority. Top priority, peace before everything, God before anything, love before anything, real before everything, home before any place, shoot before anything, style and stay radiate, love, power, slay the hate, home before any place, shoot before anything, style and stay radiate, love, power, slay the hate, priority. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.